Storie di imprenditori e innovatori, il coraggio visionario di Oliviero Toscani. Quando parliamo di leadership, spesso ci concentriamo su imprenditori che costruiscono imperi economici, ma la leadership non è solo una questione di numeri, è la capacità di cambiare il modo in cui vediamo il mondo. Oliviero Toscani, fotografo e direttore creativo, non ha fondato aziende miliardarie, ma ha lasciato un segno indelebile nell'industria della comunicazione, rivoluzionando il modo di fare marketing e rendendo l'arte un potente strumento di provocazione e riflessione. La sfida: ridefinire la pubblicità. Alla fine degli anni Ottanta, Toscani ricevette una sfida da Benetton: trasformare un'azienda tessile in un brand globale. In un'epoca dominata dalle pubblicità convenzionali, Toscani capì che serviva un approccio diverso per distinguersi. Così iniziò una rivoluzione che avrebbe cambiato per sempre il rapporto tra comunicazione e consumatori. La soluzione: osare con messaggi potenti. Toscani ha portato la pubblicità fuori dalle pagine patinate, trasformandola in un mezzo per affrontare temi sociali complessi. Non si trattava solo di vendere vestiti, ma di creare un dialogo globale. Creatività senza confini. Le campagne di Toscani per Benetton si basavano su immagini provocatorie e audaci, spesso prive di riferimenti diretti ai prodotti. Temi come razzismo, AIDS, guerre e disuguaglianze diventavano protagonisti. Un'identità distintiva. L'uso costante del logo United Colors of Benetton, accanto a immagini forti, ha reso il marchio immediatamente riconoscibile, dimostrando che il branding non riguarda solo i prodotti, ma anche i valori. Un esempio iconico? La fotografia di un bimbo appena nato, ancora coperto di sangue. In un mondo abituato a perfezione e artificio, questa immagine era un inno alla realtà cruda, scatenando polemiche e riflessioni. Lezione di leadership: comunicare con coraggio. Oliviero Toscani non era solo un creativo, ma un leader che ha saputo affrontare le controversie senza paura. Le sue campagne insegnano tre lezioni fondamentali. 1. Valorizzare i valori. Le aziende non sono solo produttori di beni, ma portatrici di visioni. Toscani ha dimostrato che sposare cause sociali può rafforzare il legame emotivo con il pubblico. 2. Osare essere diversi. La leadership non riguarda il conformismo, ma il coraggio di sfidare le norme. Le campagne di Toscani hanno dimostrato che rompere gli schemi può essere una strategia vincente. 3. Rendere l'arte uno strumento di cambiamento. In un mondo in cui il marketing era dominato dalla funzionalità, Toscani ha trasformato la pubblicità in un veicolo per il cambiamento sociale. Il risultato? Un impatto che supera il mercato. Sebbene le campagne di Benetton abbiano suscitato polemiche, hanno anche reso l'azienda un simbolo di innovazione e coraggio. Più di 30 anni dopo, molti ricordano ancora quelle immagini. Non perché vendessero un maglione, ma perché comunicavano un messaggio che trascendeva il prodotto. L'eredità di Toscani, il marketing come leadership. Oliviero Toscani ha dimostrato che la leadership creativa può influenzare intere industrie e società. Le sue campagne ci ricordano che le aziende non sono solo attori economici, ma anche agenti culturali con il potere e la responsabilità di modellare il mondo in cui viviamo. E voi, quali sono i valori che la vostra azienda comunica attraverso il suo lavoro? Raccontatelo nei commenti.